Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. È senza dubbio un momento emozionantissimo. Sono contenta che alla fine un fatto brutto che sia capitato a me serva per aiutare tantissime altre persone che speriamo non si trovano in questa situazione, però dovendosi trovare in questa situazione speriamo che sia una cosa che aiuti anche gli altri. È il principale motivo per cui lo sto facendo. Non dovrebbe neanche esserci tutta questa campagna, cioè non dovrei neanche essere io qua oggi, perché dovrebbe essere una cosa automatica, insomma. Già, una cosa automatica. Sapete chi è questa persona che parla, questa donna, cari ascoltatrici, cari ascoltatori? È Vanessa Mele, la quale quando aveva 6 anni rimase orfana di madre perché il padre uccise sua madre. Cosa è successo? Si è fatto qualche anno di carcere il padre, poi quando è uscito ha preteso la pensione della moglie e l'eredità, quindi non solo ha levato la madre alla figlia, ma quando è uscito dal carcere, siccome la legge lo prevede, si è preso l'eredità e anche la pensione. E oggi è approdata alla Camera questa proposta di legge per cercare di porre una toppa su questa cosa incredibile che c'è nel nostro paese, cioè tutti questi uomini che uccidono le mogli, quando poi escono hanno diritto alla pensione, hanno diritto all'eredità, e tanti figli non sono per nulla salvaguardati neanche in quel caso, oltre a essere rimasti orfani e protagonisti di una tragedia che non finisce mai. Voi vi sareste mai aspettati che in Italia ci fosse bisogno di una proposta di legge per modificare questa cosa? Una roba incredibile. In compenso, almeno per i sostenitori, non per i detrattori, oggi è stata una giornata importante, storica, come molti l'hanno definita, chi in positivo, chi in negativo, perché sapete che le unioni civili sono diventate legge. Quindi applauso e felicità, ci sono per esempio sui vari siti la foto di Monica Cirinnà, che è la prima firmataria di questa legge, che abbraccia in piazza gli attivisti e i suoi colleghi politici, eccetera. Dall'altra parte c'è chi invece già, per esempio i teocon, quindi conservatori, teologici, come vogliamo definirli, quelli catto reazionari, catto conservatori, che già annunciano che faranno un referendum abrogativo, e qualcuno che dice questo è un attacco mortale alla famiglia. Allora, siccome poi ne parleremo ampiamente con Effetto Notte, vi chiedo, ora che il testo è legge e che qualcuno appunto ha esultato, qualcuno invece ha protestato vivamente, secondo voi è davvero una conquista storica o è invece un attacco diretto alla famiglia, come dice qualcuno? E nel caso fosse così, secondo voi un attacco diretto alla famiglia, in che senso? Lo sapete che i vostri due modi per interagire sono o la pagina Facebook di Effetto Notte, che è sempre lì per voi, Effetto Notte trattino Roberta Giordano, e poi c'è sempre il numero anche dei WhatsApp e degli SMS, che è il 349-238-6666, 349-238-6666, o pagina Facebook di Effetto Notte, per scrivere cosa ne pensate, conquista storica o attacco diretto alla famiglia. E adesso, come sempre, vi riassumerò la giornata, parleremo molto di questo, parleremo anche di Cannes, ci collegheremo direttamente perché oggi apre il sipario, il Festival del Cinema a Cannes. Intanto, mentre voi riflettete, io inizio questo riassunto della giornata. Unioni civili, il testo è legge. La Camera ha dato il via libera definitivo con 372 sì. Renzi lo definisce un giorno di festa tanto atteso. I teocon annunciano un referendum abrogativo. Terrorismo, l'allarme dagli Stati Uniti. In Europa ondata di foreign fighters mai vista prima. Brexit, l'uscita della Gran Bretagna dall'Europa, avverte il ministro Padoan, costituirebbe una minaccia sistemica e annuncia le misure sulle banche funzionano. Processo escort, rese note le motivazioni della sentenza che ha condannato Tarantini a Bari. Da Berlusconi cene poco eleganti, le ragazze servivano ad appagare la sua libidine, si legge nella sentenza. Femminicidi, alla Camera approda una proposta di legge per escludere dall'asse ereditario gli uomini condannati per l'omicidio della moglie. Camorra, mezzo chilo di tritolo trovato in Puglia per uccidere il procuratore di Napoli. Cagliari, coniugi uccisi in casa, la polizia cerca i figli della coppia. La rapina al Museo di Verona, recuperate in Ucraina le 17 tele, 3 dipinti e anche capolavori di Tintoretto e Mantegna. Cinema, la 69esima edizione del Festival di Cannes apre il sipario con Woody Allen, applausi per il suo Caffè Society, commedia romantica con cast stellare. Partiamo quindi dalle unioni civili che sono diventate legge, quindi via libera definitiva dell'Aula della Camera, la legge sulle unioni civili. Il testo è stato approvato a Montecitorio con 372 voti a favore, 51 contrari e 99 astenuti. Renzi ha commentato: oggi è un giorno di festa, l'Italia fa un passo avanti, è un giorno molto atteso. La proclamazione del risultato della votazione è stata salutata da un forte applauso dai banchi del PD, applausi anche fuori dalla Camera, dove un gruppo di attivisti ha salutato il voto con un boato. Proteste invece da parte delle opposizioni. Salvini della Lega invita i sindaci del Carroccio all'obiezione di coscienza. I Teocon e la Lega hanno già annunciato un referendum abrogativo. Poi vi dicevo, ne parleremo ampiamente anche per capire poi cosa c'è, qual è il contenuto di questa legge, perché molti giustamente ancora non lo hanno capito. Ne parleremo diffusamente. E poi, a proposito di femminicidi, sta per cambiare la legge per chi uccide il coniuge, che nel 99,9% dei casi è una donna. Chi uccide la moglie non può più pretendere la sua eredità. Il principio è di buon senso, ma purtroppo così scontato non è. Tant'è che oggi i figli, le cosiddette vittime collaterali dei delitti in famiglia, spesso devono combattere lunghe e costose battaglie legali per ottenere risarcimenti, ma anche per vedere escluso il padre, in rari casi la madre, omicida dall'asse ereditario. Di qui la proposta di legge presentata alla Camera per rendere automatica per gli uxoricidi l'indegnità a succedere. Nella proposta è previsto anche il gratuito patrocinio per i figli e la sospensione dei diritti alla pensione di reversibilità, anche se si è solamente indagati e non ancora condannati. Primo firmatario il deputato Roberto Capelli di Centro Democratico. Noi cerchiamo di rendere automatici questi diritti, perché è compito dello Stato stare a fianco a queste persone sole, comunque, in ogni caso, gran parte dei casi minorenni. È un segno di vicinanza dello Stato che richiediamo per loro conto e che ritengo sia dovuto. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Economia. Il governo italiano si aspetta il via libera di Bruxelles sulla flessibilità sui conti pubblici. A ribadirlo il ministro Padoan nella sua giornata londinese. Siamo molto fiduciosi. Il nostro programma di bilancio è pienamente in linea con le regole europee. Dalla City il ministro dell'economia torna sulla questione dei conti pubblici. L'Italia chiede maggiore flessibilità a Bruxelles, che risponderà nei prossimi giorni, forse tra una settimana. Tasto dolente il debito pubblico, rimasto al picco del 2015. Una deroga al target atteso e concessa qualora vi siano fattori rilevanti, spiega Padoan nella lettera inviata alla Commissione europea. Poi conferma: la strada principale per ridurre il debito PIL e crescere di più. L'Italia comunque è tornata, dice il titolare del Tesoro. Anche le misure sulle banche funzionano e i crediti deteriorati sono in calo. E su Atlante, a Bloomberg TV, commenta: il settore privato bancario potrebbe decidere di rafforzare il fondo, senza, in borsa ci sarebbe una volatilità ancora maggiore. Poi l'annuncio su Poste: potremmo cedere una quota maggiore. Infine un cenno sul referendum più temuto d'Europa. La Brexit rappresenta una minaccia sistemica, avverte Padoan. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E c'è una notizia di pochi istanti fa a proposito del terremoto dell'Aquila. La Cassazione conferma le condanne per il crollo della casa dello studente. Poi vediamo se arriva qualche dettaglio in più. Intanto parliamo dell'allarme terrorismo che arriva dagli Stati Uniti. Un'ondata di foreign fighters, quindi di combattenti che dall'estero vengono in Europa, è senza precedenti. A lanciare l'allarme è la cosiddetta zarina antiterrorismo della Casa Bianca, Lisa Monaco, che in visita a Bruxelles ha pressato le autorità del Belgio a fare più squadra, a condividere un maggior numero di informazioni sul fronte dell'intelligence nella lotta all'ISIS, cosa di cui si parla da tempo. In una serie di incontri, tra cui quello col premier belga, riporta così il Wall Street Journal, la Monaco ha parlato di un flusso di jihadisti di ritorno come non si era mai visto in Europa. E siamo di nuovo in Italia. Volevano uccidere il procuratore capo di Napoli col tritolo ritrovato in Puglia. Lo rivela un pentito. La camorra voleva ucciderlo con mezzo chilo di tritolo a Gioia del Colle, dove il procuratore di Napoli Giovanni Colangelo risiede. Il clan che stava pianificando l'attentato aveva studiato nel dettaglio gli spostamenti tra Puglia e Campania del magistrato nato in provincia di Bari e dal 2012 a capo della procura di Napoli. A rivelarlo, un collaboratore di giustizia vicino agli ambienti della Sacra Corona Unita, ma originario della Campania. Mentre si trovava in carcere nel 2015, l'uomo sarebbe venuto in contatto con alcuni affiliati ai clan dell'area nord di Napoli, Napoli e avrebbe appreso dell'agguato ai danni del procuratore. Il tritolo, pronto per essere consegnato, pochi giorni fa era stato trovato dalla polizia insieme a una pistola calibro 7,65 a Gioia del Colle. Era nascosto tra i cespugli di fronte alla residenza di un noto trafficante d'armi, Amilcare Monti Condesnit, finito in carcere per la vicenda, con altri 4 complici. Grazie alle indagini sul tentato omicidio di un pregiudicato a Bari, avvenuto il 14 febbraio scorso, e alle intercettazioni ambientali, i magistrati della DDA avevano scoperto le trattative per l'acquisto e la consegna dell'esplosivo. Fabrizia Ralla, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bari. E siamo ancora sulla cronaca con questo fatto a Cagliari. Una coppia di coniugi è stata uccisa nella sua abitazione. Ancora senza un colpevole, il duplice omicidio che si è consumato a Settimo San Pietro, piccolo comune alle porte di Cagliari, dove questa mattina sono stati ritrovati nella loro abitazione i corpi senza vita di due coniugi, Giuseppe Diana di 67 anni, cuoco in pensione, e Luciana Corgiolu di 62, ostetrica. Un delitto al momento senza un movente, consumato almeno 48 ore prima del ritrovamento e che ha scosso la tranquilla comunità. Incredula per la sorte toccata alla coppia molto conosciuta in paese, anche in quanto da tempo impegnata nel volontariato. La scoperta è stata fatta dal fratello della donna, che non vedeva la coppia da un paio di giorni ed era andato a controllare se fosse successo qualcosa. Dei due figli, entrambi adottivi, è stato rintracciato a Roma il più piccolo, Alessio, di 24 anni, mentre al momento la Polizia di Stato, anche attraverso l'uso di elicotteri, è alla ricerca dell'auto di Giuseppe Diana e di uno dei due figli, Igor Pizzaiolo, di 28 anni, che vive nella casa della coppia uccisa. Il ragazzo era stato visto uscire di casa con l'auto del padre nella mattina di lunedì. Giuseppe Murru, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Cagliari. E siamo alle motivazioni della sentenza del processo Escort, state rese note oggi, la sentenza che ha condannato Tarantini a Bari. Da Berlusconi cene poco eleganti, le ragazze servivano ad appagare la sua libidine. Le indagini sulle Escort portate, vi ricordate, da Giampaolo Tarantini a Silvio Berlusconi, hanno tratteggiato le abitudini, scrivono i giudici nella sentenza, di vita e i riprensibili costumi extra istituzionali dell'allora premier, protagonista delle cene poco eleganti organizzate nelle sue residenze, beneficiando della costante imprescindibile presenza di avvenenti, provocanti, disinvolte, spregiudicate, disinibite, soprattutto giovanissime donne che volevano dare una svolta alla loro talvolta a dir poco modeste vite. Questo è scritto nella sentenza. E poi la rapina al Museo di Verona, c'è una buona novità: sono stati recuperati in Ucraina i 17 dipinti di grande valore trafugati la sera del 19 novembre 2015 dal Museo di Castelvecchio a Verona. Lo ha reso noto il comandante della Polizia di Frontiera Ucraina. Tra le tele rubate ci sono capolavori di Tintoretto, Rubens, Mantegna. I quadri sono stati ritrovati il 6 maggio nella regione di Odessa e stavano per essere portati in Moldova. Parliamo adesso di mare e turismo. Sale la Sardegna, scendono Abruzzo ed Emilia-Romagna. Le bandiere blu, certificato di qualità delle spiagge, sono in continuo aumento, ma fa discutere quella assegnata a Melendugno, in provincia di Lecce. Non mancano le sorprese tra i 152 comuni premiati con la bandiera blu, il riconoscimento conferito alle località balneari che soddisfano i requisiti di pulizia delle acque e di qualità dei servizi turistici offerti. Una delle 11 bandiere assegnate alla Puglia per il 2016 è andata per il sesto anno consecutivo a Melendugno, il comune salentino scelto dal Ministero dello Sviluppo Economico come approdo del TAP, il gasdotto transadriatico che dal 2020 dovrebbe collegare l'Italia all'Azerbaigian. Una beffa per le associazioni ambientaliste che si battono a fianco del presidente della regione Michele Emiliano per far spostare l'arrivo del TAP a Brindisi e che si aspettavano un declassamento da parte della Fondazione per l'Educazione Ambientale, l'ONG che ogni anno assegna le bandiere. Premiate quest'anno la Sardegna con 3 new entry, Badesi, Teulada e Sassari, e la Liguria, sempre più in testa, con 2, Levanto e Cerviale. Puniti invece l'Abruzzo, che rispetto allo scorso anno perde 3 bandiere, Roseto, Francavilla e San Vito Chietino, e l'Emilia Romagna, a farne le spese Gatteo e San Mauro Pascoli. Emiliano Mariotti, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Per chiudere il cinema, la 69esima edizione del Festival di Cannes apre il sipario con Woody Allen, applausi per il suo film Café Society, che è una commedia romantica con un cast stellare, con tanti attori e attrici importanti. Poi ci collegheremo direttamente con Cannes. Invece adesso mi collego direttamente con i vostri messaggi, tanti che stanno arrivando sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, sia al 349-238-6666. Visto che oggi le unioni civili sono diventate legge, molti le hanno accolte con felicità, altri invece invece protestano e qualcuno dice è un attacco diretto alla famiglia. Per voi conquista storica o attacco alla famiglia, e in che senso? Anche vorrei sapere se la pensaste, diciamo, con questa seconda posizione. Vediamo sul parte WhatsApp, non dovete fare le telefonate a WhatsApp, mandare messaggi. Allora, Claudio da Pordenone, la legge sulle unioni civili serve a ricordare che il nostro è un paese laico. Io sono omosessuale, ti confido un gran segreto, sono nato da una famiglia. I miei amati genitori, pur essendo nati un paio di generazioni fa, mi hanno sempre detto di essere onesto, lavoratore e felice, scrive Claudio da Pordenone. Poi invece Massimo dice: questa legge sull'unione di codesto governo è come la corazzata Potionchi di Fantozzi, una cagata pazzesca, scrive così questo ascoltatore. E così altri vostri messaggi. Venturino: la nuova legge non sarà a causa della distruzione della famiglia, ma il logico effetto della sua distruzione già esistente. 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte, torneremo a parlarne molto tra poco, intanto la viabilità. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Sempre Roberto Giordano con voi, tra pochissimo approfondiremo la notizia di oggi, per quanto riguarda almeno l'Italia, che è quella delle unioni civili. Intanto arrivano i vostri messaggi, tra poco vi ricordo le varie notizie principali, se non avete acceso puntualmente alle 21, e poi cominciamo a scendere appunto nel cuore degli argomenti con gli ospiti. Per esempio, i vostri messaggi sulle unioni civili, se sono conquista storica o attacco diretto alla famiglia, come ha detto qualcuno. Francesco da Torino scrive: purtroppo oggi hanno violentato la famiglia tradizionale per raccogliere voti. Poi Marco: la legge Cirinnà è una vergogna e cosa innaturale, pensassero a cose davvero urgenti e fondamentali. Un altro messaggio: personalmente non sono contrario alla legge sulle unioni, ma tassativamente dico no alle adozioni alle coppie omosessuali. 349-238-6666 il numero per gli sms e i WhatsApp, se no c'è la pagina Facebook di Effetto Notte per voi giorno e notte. Luciano scrive: per me è solo una legge che mette ordine, in questo non c'entra assolutamente la famiglia, ognuno vive la sua vita come meglio crede, diritti e doveri per tutti. Alberto dice: la questione mi è del tutto indifferente, prevedo però grane legali a strafottere quando le coppie si romperanno. Beh, tutte le coppie, può succedere di rompersi, Alberto. Comunque, vi ricordo quali sono le notizie principali e poi cominciamo appunto ad approfondire l'argomento. Unioni civili, il testo è legge, con gioia e polemiche. Renzi dice una festa, protesta dei cattolici e dell'opposizione. Salvini dice ai sindaci: dite no al celebrare le unioni civili, così come ha detto ieri Marchini. Roma replica a Bruxelles sul debito. Padoan dice: rispettiamo gli scostamenti, scrive questa lettera alla Commissione europea, fiduciosi che gli elementi per la flessibilità saranno valutati. E poi mezzo chilo di tritolo che è stato trovato in Puglia per uccidere il procuratore di Napoli. La camorra progettava un attentato nei suoi confronti e lui dice, Colangelo dice: io vado avanti, servo lo Stato. Sentenza escort, il cavaliere era protagonista, queste le motivazioni della sentenza che ha portato in carcere Tarantini, il cavaliere era protagonista Berlusconi delle cene poco eleganti, le ragazze cercavano una svolta e ne appagavano la libidine. Orlando, ministro della giustizia, oggi ha visto Legnini, vicepresidente del CSM, sempre diciamo in funzione di questa mediazione nella tensione tra politica e magistratura. Shock in Francia, una 19enne filma il suo suicidio in diretta su Periscope, un altro social network. E poi questo fuori onda della regina che è diventato un caso perché avrebbe detto della delegazione cinese: questi cinesi sono maleducati. Quindi oggi per il Parlamento italiano, per la politica italiana e anche per l'Italia tutta, di là di sostenitori o detrattori, è stata la giornata dell'approvazione di una legge che era rimasta in sospeso da tanti anni, quella sulle unioni civili. Alla Camera è infatti stata approvata la fiducia posta dal governo con 372 sì. Rosato del PD ha scritto su Twitter: 372 sì, sono un voto di fiducia con un vero record di voti positivi. Il ministro della giustizia Orlando su Facebook ha detto: è una conquista storica per i diritti civili nel nostro paese. La ministra per le riforme Boschi ha detto: una giornata bellissima. Renzi già stamattina aveva scritto: oggi è un giorno di festa, e aveva postato su Facebook una sua foto di qualche anno fa con l'attivista Alessia Ballini, morta nel 2011. 2011, scusate, a 41 anni. L'ANCI, che è l'associazione dei sindaci italiani, ha espresso apprezzamento per questa approvazione definitiva della legge Cirinnà. Dicono i sindaci, come spesso è avvenuto nella storia dell'Italia, conquiste civili e sociali importanti hanno visto promotori sindaci, il loro impulso è stato determinante. A questo proposito, a proposito di sindaci, però, ieri avete sentito Marchini, aspirante sindaco di Roma, che ha detto: se lo diventerò sindaco non celebrerò le unioni tra gay. E così Salvini, oggi leader della Lega, ha detto: sindaci della Lega disobbedite. E così anche si è accodato Bitonci, sindaco di Padova, che ha detto: anch'io non le celebrerò. Però intanto Codacons, associazione di consumatori, denuncia Salvini sulle unioni civili, dice istiga al reato, e Renzi fa sapere in serata, ha detto: nessuno può disapplicare la legge. Mentre intanto i Teocon e anche la Lega annunciano un referendum abrogativo. Cominciamo intanto a sentire l'annuncio di questa fiducia. Presenti 564, votanti 562, astenuti 2, maggioranza 282, hanno votato sì 369, hanno votato no 193, la Camera approva. Questa era la prima fiducia passata oggi, poi il voto definitivo è stato di 372. Vogliamo sentire anche Monica Cirinnà del PD, che è la prima relatrice di questa legge. Un grande giorno di festa per tutti i parlamentari laici, democratici, un grande giorno di festa per le associazioni dei diritti delle persone omosessuali, un grande giorno di festa per chi vuole che questa Italia sia un paese inclusivo, democratico, aperto. Siamo arrivati con 30 anni di ritardo, ma stiamo arrivando bene e con un testo pieno di diritti. Il Movimento 5 Stelle si è astenuto, però poco fa Di Battista del Movimento 5 Stelle a 8:30 ha fatto questa dichiarazione fra le altre. Per me la famiglia, come la chiamano i vescovi tradizionale, oggi in Italia è in crisi, perché io ho amici che hanno difficoltà ad accedere a un mutuo, a mettere in piedi un'impresa, per fare figli, non fanno figli, non si fanno figli in questo paese. Questo paese sta diventando un paese vecchio. Quindi... Ora il problema per i vescovi sono i diritti alle coppie omosessuali, sui problemi relativi alle famiglie. Non sono le rette degli asili nido che arrivano in alcune città a 600 euro al mese un asilo nido, e ci sono genitori costretti a lavorare come pazzi per pagare magari la retta dell'asilo dei loro figli, arrivano a casa e non riescono neanche per la stanchezza a parlare con i figli. Tra l'altro il Papa lo dice ogni giorno, che è la corruzione che distrugge questo paese, non quattro diritti da dare giustamente alla coppia omosessuale. E dice ancora Di Battista, agenzia di poco fa: è un'occasione persa questa riunione civili, ma meglio se c'è. E sentiamo sempre delle opposizioni Fedriga della Lega. La norma sugli unioni civili richiama infatti ai medesimi articoli del codice civile riferiti al matrimonio. E questo, Presidente, rappresenta un attacco diretto alla famiglia. E malgrado tutto questo noi andremo dal popolo a chiedere la volontà, e per questo nella giornata di domani annunceremo un referendum, perché finalmente la parola torna a quei cittadini liberi che non mirano alla poltrona, ma semplicemente a una società normale per i propri figli. Questo, diciamo, il riassunto un po' della giornata, e subito coinvolgo Barbara Fiammeri, commentatrice politica del Sole 24 Ore. Ciao Barbara. Buonasera a tutti. Questo, quindi, ti dicevo un po' così a grandi linee il puzzle di questa giornata, che per te è storica, è un attacco diretto alla famiglia. E che ne pensi di questo risultato? Renzi ha scritto, diciamo, ultimamente. Oggettivamente è una giornata storica, perché erano da 20 anni, ma anche più, che si sentiva parlare appunto di una legislazione sulle unioni civili e le coppie omosessuali. Ricordiamo i DICO, i PAX, insomma gli acronimi sono stati molti, anche fantasiosi, che ci sono stati. Quindi non c'è dubbio che storicamente è un dato di novità assoluta. Sul giudizio, personalmente, se tu mi chiedi un'opinione personale, io quando si, come ha detto un ascoltatore, quando si mette ordine, quando si legifera, si disciplina qualcosa che è già in essere, perché le coppie omosessuali, a differenza ad esempio anche delle convivenze eterosessuali, non avevano altro modo, cioè non c'era un modo, cioè le coppie eterosessuali che convivono volendo si sposano, e quindi, diciamo, possono sanare, tra virgolette, la mancanza di alcuni diritti. Nel caso delle coppie omosessuali significa semplicemente, non legiferando, significa solo girarsi dall'altra parte, perché è un dato di fatto, gli omosessuali esistono, non è che non esistono, esistono da sempre, in questo caso gli si riconoscono dei diritti. Ora, secondo te Barbara poteva essere, come volevamo per esempio il Movimento 5 Stelle, maggiormente discusso anche alla Camera, questo voto di fiducia si poteva evitare, si poteva rimandare di qualche giorno a discutere, o come temeva Renzi e la maggioranza PD, anche la minoranza PD, si rischiava ancora di andare alle calende greche con 1000 emendamenti? Ma cioè, io quello che vedo in generale, devo dire, nell'attività parlamentare, ma poi in particolare per quei provvedimenti che sono alla ribalta, no? Anche dei mass media, quindi, come dire, i parlamentari sono anche e toccano interessi, perché qui chiaramente c'era anche l'interesse di difendere quello che è un patrimonio storico-religioso dell'idea di famiglia, quindi vengono messe insieme tante cose. L'idea che poi il dibattito parlamentare si trasformasse in una vetrina e andasse per le lunghe non è così peregrina, insomma, l'abbiamo visto. Tra l'altro non è che di questa legge non si è discusso, cioè noi parliamo di provvedimenti che hanno fatto anche questo, spola tra Camera e Senato, e che sono stati discussi in commissione, in aula, in lungo e in largo, quindi la fiducia in questi casi è una fiducia, come si può dire, di carattere tecnico, che ha tolto la cosa vera e che ha tolto anche un po' le castagne dal fuoco a chi, come i centristi di Alfano, storcevano la bocca, nel senso che i dissensi sono stati, mi sembra, alla Camera 1. Infatti, scusa Barbara, poi chiediamo Alfano, ministro Alfano, il ministro dell'interno, leader del nuovo centrodestra, ha affermato: senza di noi le unioni civili sarebbero state una fotocopia del matrimonio e le adozioni per le coppie gay sarebbero state consentite, questa è la verità, quindi dice è anche merito nostro. Ti dico un'ultima cosa fra i vari messaggi, Enrico, perché molti ne fanno una questione economica, dice: voglio vedere dopo come faranno a pagare tutte queste pensioni di reversibilità, anche quelle fasulle, anche eterosessuali, unioni civili, di comodo, anche eccetera. Questo, voglio dire, è stato fatto uno studio che l'INPS ha dato alla commissione quando era il testo del provvedimento, era alla commissione bilancio, alla commissione del Senato, e la commissione bilancio ha fatto uno studio attraverso l'INPS in cui in realtà l'incidenza delle coppie della reversibilità sulle coppie omosessuali è abbastanza, insomma, irrisoria. Anche se è vero, devo dire, Barbara, comunque la si pensi, se una persona paga per una vita i suoi contributi, paga le tasse, non si vede perché non debba poi far passare alla persona che ama una volta che muore. Ma peraltro, no? Cioè, il problema che ci dovremmo porre è sulle unioni, sui matrimoni, chiamiamoli come vogliamo, di comodo, che negli ultimi anni... Sì, gente che a 80 anni sposa magari una persona che ne ha 50 di meno e che poi dopo due anni magari muore, allora quella persona ha diritto alla reversibilità, magari togliendola a una prima moglie piuttosto che ai figli. E no, questa è una questione a parte molto diffusa in Italia, purtroppo. Barbara Fiammeri, ci risentiamo venerdì. Facciamo tutto il riassunto della politica della settimana. Ciao Barbara. Arrivederci a Ciao. Tutti. Adesso invece voglio coinvolgere Gian Ettore Gassani, che è presidente dell'Associazione Italiana Matrimonialisti. Buonasera, avvocato. Buonasera. Perché qui interessa capire allora quali sono i contenuti principali di questa legge. Prima di tutto mi sembra che sia divisa in due parti, perché ci sono sia le unioni civili sia le coppie di fatto. Perché qualcuno si chiede, ma regolamenta anche le coppie di fatto eterosessuali? Sì. Le unioni civili valgono soltanto per le coppie dello stesso sesso, non riguardano le coppie eterosessuali, e sono praticamente sovrapponibili come struttura al matrimonio, perché in effetti, tolto l'obbligo delle pubblicazioni e l'obbligo di fedeltà, per tutto il resto le norme del codice civile richiamate, i diritti e i doveri che sono contemplati, sono praticamente sovrapponibili, sono la fotocopia dell'istituto del matrimonio, che francamente non è negativo, almeno a mio parere. Si è giocato molto sui termini più che sui contenuti, probabilmente la politica è costretta anche a questo tipo di azioni. Non riguarda me, sono un avvocato, non faccio politica, però devo dire tecnicamente che non vedo differenze tra un matrimonio e un'unione civile, anzi devo dire che le unioni civili sono contemplate forse in maniera ancora migliore dei matrimoni, hanno forse una snellezza e una modernità che non ha il matrimonio. Per esempio, nel caso in cui finisse l'idillio, la voglia di stare insieme, non c'è la separazione, c'è una sorta di dichiarazione unilaterale che uno dei due può fare all'ufficiale di stato civile. Dopo 3 mesi può già chiedere il divorzio, giudiziale o consensuale che sia, quindi già non esiste il doppio come succede nel matrimonio, quindi risparmio di spese, risparmio di tempo. Per esempio c'è l'unico cognome, nei matrimoni non esiste, invece la coppia, l'unione civile prevede che uno dei due cognomi possa essere in qualche modo tolto di mezzo, ce n'è uno solo, ma questa è una scelta. È una scelta, naturalmente, certo. E poi non c'è l'obbligo di fedeltà. Questo c'è stata una discussione anche all'interno del mondo degli omosessuali, i quali sono un po' risentiti di questo. Beh sì, perché sembra di considerarlo di serie B e quindi alla fine serie B con sono portatori di valori di un dio minore, quindi magari abituati a tradizioni, che non è vero. C'è però tuttavia un obbligo più generale, che è quello della solidarietà, che secondo me riguarda anche quello di fedeltà. Ma questo che cosa determina la mancanza di obbligo della fedeltà, indipendentemente da come la pensiamo? Che non ci sarebbe poi l'asprezza di un processo con l'addebito, quindi con risarcimento del danno, che è tipico invece dei matrimoni. Quindi paradossalmente forse il matrimonio dovrebbe prendere esempio delle unioni civili sul piano tecnico e della snellezza, poi si possono fare tutti gli altri ragionamenti. Io non credo francamente che le unioni civili, se mi è consentito dare un giudizio su questo, siano un attacco alla famiglia. Io ho girato l'Europa, abbiamo fatto dei convegni, eravamo l'ultimo paese dell'Occidente ancora a stare qui a discutere e mi ricorda tanto un po' quello che è successo nel divorzio nel 70. Fu parato il divorzio nel 74, ci fu il referendum per abrogarlo e contro ogni previsione, andatevi a leggere un po' i testi i giornali dell'epoca, vinse il divorzio. Nonostante i numeri, almeno alla vigilia del referendum, dessero una netta e schiacciante preferenza invece per coloro i quali lo volevano abrogare. Io sono convinto che se si facesse un referendum oggi, chiarendo che le unioni civili non sono altro che una regolamentazione di rapporti anche e soprattutto patrimoniali ed economici, che a noi non interessa niente, a noi altri, non dobbiamo entrare in questo merito, e soprattutto considerando che in Italia ci sono tantissime coppie omosessuali che già convivono, credo che secondo me gli italiani faranno un salto di qualità, poi ognuno può pensare come vuole, ma certo è che nel 70 ci furono 500.000 matrimoni, nel 2014 appena 190.000, forse ci dobbiamo preoccupare perché il matrimonio stia scomparendo e non certamente perché esistono le unioni civili, perché gli italiani non si sposano più e questo è un dato di fatto statistico dell'Istat che non è più discutibile, che non dipende dagli omosessuali. Avvocato Gassani, fra i tanti messaggi, per esempio questo che dice: era ora in cui le vie del contenzioso e dell'obiezione sono infinite, che si assicuri effettività ai diritti. Per esempio questa storia dell'obiezione di coscienza, no? Già ieri Marchini, che è candidato sindaco a Roma, oggi Bitonci, sindaco di Padova, ha detto anche lui non celebrerò le unioni gay, e Salvini, leader della Lega, ha invitato i sindaci del Carroccio anche loro ad astenersi. Può esistere l'obiezione di coscienza in questo caso? Ma non credo assolutamente, non si può non consentire l'esercizio di un diritto rispetto ad una legge dello Stato. Io vorrei vedere i nostri amici francesi, quelli al confine, che cosa pensano di noi? O gli spagnoli, o gli inglesi, o i tedeschi, o i greci, vorrei sapere che cosa pensano di noi. Al di là di quello che noi pensiamo, non possiamo in qualche modo pensare che una legge non debba essere rispettata perché tu non ci credi. Tu sei un'istituzione, ma indipendentemente da quello che tu credi, devi applicare una legge. È come se il magistrato a un certo punto pensasse in un certo modo, ma non applica il codice penale perché lui la pensa in un modo diverso. Ma non scherziamo. Qualcuno, Gassani, mi chiede che differenza c'è tra l'obiezione di coscienza nell'aborto, nel praticare l'aborto, oppure in questo caso? Ma guardi, là quello è un discorso diverso, perché chiaramente ci possono essere gli obiettori di coscienza nell'aborto, perché ci sono sicuramente altri medici che possono eventualmente procedere, ma un sindaco che si rifiuta non è che ha dei sostituti, o comunque un intero ufficio anagrafe non ha sostituti, quindi questo sarebbe una differenza anche di carattere pratico. Sulle adozioni invece sappiamo che la stepchild adoption è stata per il momento stralciata, sentivo Renzi che ha detto stasera sulle adozioni gay non so se ci sono le condizioni parlamentari, vedremo nelle prossime settimane e mesi, però varie sentenze già ci sono state, cioè dove la politica ancora non è arrivata la giurisprudenza, sì, o no? Infatti il Tribunale per i minorenni di Roma è già in tre occasioni ha già in qualche modo applicato l'articolo 44, che è altro non è che la stepchild adoption, quindi di fatto già la legge sulle adozioni prevede, ma attenzione, un conto è la stepchild adoption e un conto è lo sdoganare la possibilità per le coppie omosessuali di adottare, stiamo qua parlando di tutt'altro. Certo. Su questo non credo proprio che questo possa mai succedere, almeno nei prossimi 30 anni. Sulla sexual adoption, che si tratta di adottare il figlio biologico dell'altro, perché non se ne può fare a meno per tutelare un bambino che non avrebbe altrimenti altra tutela, questo è un altro discorso, la legge già c'è, già lo prevede, ma le adozioni delle persone dello stesso sesso credo sia sul profilo culturale, legislativo, sia qualcosa di molto, molto, molto lontano. Beh, è stato chiarissimo, avvocato Gianetto Legassani, grazie. Grazie a voi. Grazie, buona serata. Fra i vostri messaggi ancora, prima di lasciarci brevemente, Luisa da Roma scrive: viva Cirinnaella Boschi, ottima legge, ora si festeggi, poi si lotti per il resto, tra parentesi, dice adozione e fedeltà. 349-238-6666, il numero per SMS e WhatsApp, oppure pagina Facebook di Effetto Notte, a tra poco. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Logisticamente, Modul Block. Scarica l'app Modul Block e vivi l'esperienza in realtà aumentata. Vi presenta... Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice Roberta Giordano con voi. Continuate a interagire con i vostri messaggi al 349-238-6666 oppure sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Le unioni civili sono legge, conquista storica o attacco diretto alla famiglia, come dice qualcuno. Michele Pio mi dice: Roberta, prepara la busta per il mio matrimonio con Luciano, sei invitata. Grazie, va bene, se mi dici dove e quando. E poi dice Mauro: ma perché non fanno i conti, se sono sostenibili le pensioni dei politici invece appunto dei gay? Queste le notizie più importanti che vi riassumo velocemente. Unioni civili, il testo è legge, la Camera ha dato il via libera definitivo con 372 sì, Renzi lo definisce un giorno di festa tanto atteso, i Teocon annunciano un referendum abrogativo, terrorismo, l'allarme dagli Stati Uniti, in Europa ondata di foreign fighters mai vista prima, Cagliari, coniugi uccisi in casa, la polizia cerca i figli della coppia, la rapina al Museo di Verona recuperata in Ucraina, le 17 tele, anche capolavori di Tintoretto e Mantegna, per il cinema la 69esima edizione del Festival di Cannes apre il sipario con Woody Allen. E siamo alla politica. Il 5 giugno si vota per le amministrative, lo sapete, in oltre 1000 comuni italiani, comprese alcune grandi città come Milano, Roma, Torino, Napoli, Bologna. Radio 24, lo sapete, sta dedicando degli spazi di approfondimento al voto, anche qui a Effetto Notte. Cominciamo da Milano, avete già sentito i reportage di Raffaella Calandra con le interviste a Beppe Sala, Stefano Parisi e Gianluca Corrado, però qui facciamo anche il punto sugli altri candidati. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ministri, soubrette, figli di, eppure l'autista del segretario della Lega. C'è di tutto tra i nomi delle 17 liste presentate a Milano a sostegno dei 9 candidati sindaco. Oltre alla coalizione di centrodestra con Parisi e al centro-sinistra con Sala, oltre ai 5 Stelle con Corrado, sono altri 6 i nomi in corsa per Palazzo Marino, con altrettante liste che possono risultare decisive per un eventuale ballottaggio. Dopo il 5 giugno faremo le nostre valutazioni, si limita a dire Basilio Rizzo di Milano in Comune, che guarda soprattutto a quella sinistra che non si riconosce in Mister Expo. Non ci produceremo probabilmente come lista, faremo dei ragionamenti e ognuno si adeguerà. Forse bisognava scegliere un candidato che fosse dentro la storia del centro-sinistra e non un candidato esterno. Non c'è un problema di frammentazione o che favorisca il centro-destra. Noi riteniamo innanzitutto che con la nostra presenza rendiamo più difficile che il centro-destra magari rischi di vincere al primo turno, perché c'è moltissime persone che non avrebbero mai votato per il candidato dato sindaco Sala. Se il centrosinistra non vincerà, non credo che sarà colpa della nostra presenza, probabilmente dovrà riflettere sugli errori che ha fatto nello scegliere una certa candidatura, nell'aver tentato di tagliare le ali della coalizione. Natale Azzaretto è invece il candidato sindaco del Partito Comunista dei Lavoratori. Noi la democrazia partecipata la vogliamo propriamente realizzare. Se lei contrappone la figura di Parigi e la figura di Sala, non fanno nient'altro che rappresentare una stessa faccia, la faccia del capitale e dei poteri forti di questa città. Sull'altro fronte si presenta come alternativa al centrodestra di Parisi Nicolò Mardegan, Noi per Milano, sostenuto tanto dall'UDC di Rotondi quanto da Casa Pound. La nostra sfida è quella di un centrodestra alternativo che è rappresentato dalla nostra lista Noi per Milano, quindi il ballottaggio, l'auspicio è quello di sfidare Noi Sala, non il vecchio centrodestra che ormai ha già dato prova del proprio fallimento. La lista alternativa municipale appoggia invece Luigi Sant'Ambrogio, già assessore legislativo leghista e presidente di Italia Nostra. In un eventuale ballottaggio lega invece il sostegno a dei quesiti referendari il radicale Marco Cappato. Noi abbiamo preparato una piattaforma referendaria di 4 referendum vincolanti sul tema degli alloggi sociali senza consumo di suolo, della mobilità, del verde, e questi 4 referendum li abbiamo proposti a tutti e abbiamo ricevuto solo silenzi. Bene, tra il primo e il secondo turno sicuramente spetterà ai 2 candidati prendere degli impegni davanti agli elettori su quelle proposte. Respinta al momento la lista Fucsia People con l'unica candidata donna, Maria Teresa Baldini. Si parla tanto di quote rosa, poi alla fine il risultato che cos'è? Che non ci sono donne. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Anzi, in pochi secondi, mentre arrivano continuamente ancora i vostri messaggi, Simone scrive: legge moderata, quella su Unioni Civili che non attacca niente e nessuno. Unioni Civili, appunto, oggi il testo è legge, la Camera ha dato il via libera definitivo con 372 sì, Renzi lo definisce un giorno di festa tanto atteso, mentre Lega e Teocon annunciano un referendum abrogativo. Terrorismo, l'allarme negli Stati Uniti, in Europa ondata di foreign fighters come mai prima si era vista, a Cagliari coniugi uccisi in casa, la polizia cerca i figli della coppia. Europa 24 notte. Parliamo di terrorismo perché arrivano nuovi poteri per Europol, che è l'agenzia di polizia europea. Via libera da Strasburgo a nuovi poteri per Europol. L'agenzia di polizia europea potrà presto intensificare gli sforzi per combattere il terrorismo, la criminalità informatica e altri reati e rispondere in modo più rapido alle minacce. E in ogni caso ai nuovi poteri si affiancano anche forti garanzie sulla protezione dei dati e strumenti di controllo democratico. La lotta al terrorismo è in cima alle priorità dell'agenda politica. L'80% dei cittadini europei, secondo un recente sondaggio, ci chiede di intervenire contro gli atti di terrorismo. Con queste parole il commissario europeo per la migrazione, Dimitri Avramopoulos, ha aperto la seduta plenaria del Parlamento europeo che oggi approva definitivamente la riforma di Europol in vigore dal 1 aprile 2017. L'Ufficio europeo di polizia sarà potenziato nelle attività di raccolta e analisi delle informazioni e nella loro condivisione con gli Stati membri, obbligati a fornirli. Prima di tutto Europol sarà un hub di informazioni per il rafforzamento legale nell'Unione Europea. Lo scambio di informazioni è il nostro obiettivo e anche la protezione dei dati personali verrà rafforzata. Per quanto riguarda la governance di Europol, ci sarà un board esecutivo. È previsto un sostegno finanziario alle indagini e nei prossimi 2 anni verranno esaminati i risultati forniti ogni anno ai parlamenti nazionali e al Parlamento europeo. Si fondono Europol e Cepol, l'Accademia europea di polizia, in un'unica agenzia nella sede di Europol all'Aia. L'eurodeputata PD Cécile Kyenge spiega quanto questi poteri nuovi possono realmente incidere nella lotta al terrorismo. Rispondere immediatamente anche a quelli che possono essere le minacce. Qui parliamo di crimini transfrontalieri. Non dimentichiamo che pochi mesi fa con l'attentato di Parigi informazioni che erano conosciute a uno Stato membro non erano stati passate a un altro Stato membro e quindi questo ha causato anche un ritardo proprio nell'intervento, arrivando perfino insomma all'attentato di Parigi. Allora questo non coordinamento e questa non reattività, cioè perché per mancanza di potere di un soggetto, di un'agenzia che deve coordinare tutto il territorio europeo, a volte può portare anche a fatti drammatici come quello che abbiamo vissuto negli ultimi tempi. Ma vorrei puntualizzare un'altra cosa: i poteri di Europol si inseriscono all'interno di quella che è la lotta contro il terrorismo, che non riguarda semplicemente un fattore, ma è un approccio globale che va dalla tracciabilità delle risorse finanziarie per arrivare fino a quello che deve essere la lotta, quindi la lotta contro la radicalizzazione, quindi a 360 gradi, però serve comunque un punto di coordinamento europeo con dei poteri che deve sostenere gli stati nel fronteggiare appunto crimini transfrontalieri. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. E adesso buttiamoci un po' sulla leggerezza, anche se il cinema è leggerezza e impegno naturalmente, ma sicuramente un po' più divertente, magari notizie un po' più pesanti, più onerose di cui abbiamo parlato finora. E di cinema parliamo perché parte oggi il Festival del Cinema di Cannes, che è la sua 69esima edizione. Quello che più o meno sappiamo dalle anticipazioni delle scorse settimane è che non c'è nessun film italiano candidato, dopo anni questa cosa succede, nessun film italiano candidato alla Palma d'Oro, cioè al premio principale, anche se ci sono in altre sezioni comunque importanti. C'è un'italiana nella giuria, che è l'attrice Valeria Gollino, e poi sappiamo che oggi è la giornata di Woody Allen. Il resto ce lo racconta la nostra Cristina Battocletti del Sole 24 Ore, che è l'inviata spedita a Cannes a scoprire chi c'è. Anche forse hai già visto già il film di Woody Allen, Cristina? Buonasera a tutti. Sì, ciao. L'ho già visto in anteprima per la stampa, quindi insomma sono fresca di visione. Valeva la pena. Dicono c'è un Woody Allen sempre più malinconico di anno in anno. Che caspita gli succede a Woody Allen? Il suo sì, spirito. È vero, però potessimo imparare tutti da lui. Insomma, il film è impeccabile, devo dire, è molto bello. C'è Kristen Stewart come protagonista. Jesse Quella Eisenberg. Di Twilight, no? Tutta la saga adolescenziale, adesso sta facendo ben altri esatto. film. Adesso infatti è una fatalona molto affascinante, divisa tra due uomini, che sono appunto Jesse Eisenberg, che è il protagonista, che sarebbe l'alter ego di Woody Allen, che arriva da New York a Hollywood, un po' sperduto, si innamora di costei. Ma costei è la fidanzata, non ufficiale perché è sposato, di Steve Carell, che è lo zio di Jesse Eisenberg, che ha fatto fortuna invece perché è l'agente dei divi. Quindi un intreccio, quindi hai detto è un bel film comunque, è tornato un po' forse al passato Woody Allen con questo film? Sai, ci sono tutti gli elementi, anzitutto c'è una famiglia ebraica soffocante che è all'origine di tutto, poi c'è il gangster che c'è sempre. Gli anni 30 che ricorrono, quindi la Belle Époque, costumi meravigliosi, devo dire, e poi c'è questo intreccio un po' cecoviano, molto macerato, con delle battute comunque esilaranti, perché quelle ci sono sempre, c'è una grande scrittura, gira sempre bene, anche se fa un film all'anno, caspita, tanto di cappello. Vabbè, sempre Woody Allen è. Cristina Battocletti, invece gli italiani, abbiamo detto, non sono candidati alla Palma d'Oro, però già domani... Sì, arriva Marco Bellocchio con Fai dei sogni, che è tratto appunto dal libro di Gramellini. È un film molto malinconico perché naturalmente la materia è quella della scoperta da parte di un uomo adulto del suicidio della madre. Probabilmente non l'hanno messo in concorso perché non ha una ricerca, diciamo, dal punto di vista della regia o della fotografia particolare, però secondo me è un film che andrà molto molto bene in Italia. È una storia toccante e recitata anche molto bene da Mastandrea. Hanno recitato bene sulla passerella oggi, chi hai visto sfilare sul tappeto rosso? Beh, c'era Kristen Stewart, c'era Jesse Eisenberg, c'era Woody Allen, poi c'erano tutta la giuria, come hai detto prima, Valeria Golino, Vanessa Paradis, Kristen Dunst, insomma un parterre pazzesco. Cannes, come sappiamo, è forse l'unico e l'ultimo festival che riesce a attirare così tante star. E naturalmente c'è Cristina Battocletti che lo seguirà in questo giorno. Quando è che chiude? Il 22, mi sembra. Il 22, è lunghissima. Quindi avremo modo di risentirci e tu di vedere un sacco di film. Grazie Cristina Battocletti da Cannes. Grazie a voi. Ciao Cristina, ciao. Allora, un po' di spazio ancora ai vostri messaggi prima di chiudere. Maurizio da Udine: mi auguro che quanto prima si possa dar corso a un referendum abrogativo della legge sulle unioni cosiddette civili. Patrizio da Pistoia: secondo me è una cosa normale da paese civile. Poi ancora sulla pagina Facebook di Effetto Notte, Alessandro: è un falso mito di progresso, ci fosse stata un'opposizione seria non soltanto in Italia non sarebbe mai passata questa legge. Irene scrive: entrambe le posizioni di propaganda, sia la conquista storica che un attacco alla famiglia, dice, conquista storica di diritti monchi ed escludenti, attacco diretto alla famiglia, ma magari sarebbe ora che superassimo questa istituzione limitante ed escludente, scrive Irene. Poi Milos dice: un punto di partenza verso la completa parità di diritti umani. Raffaele dice: beh, la legge non mi piace, nel senso che è ancora troppo scialba, ma è qualcosa. Meglio autobus vietati ai neri, scrive, o autobus riservati ai neri. E con questa domanda, questo dubbio, ci lasciamo brevemente, perché poi vi riaggiorno come sempre con i titoli alle 22.